Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre, l'Associazione Difesa Consumatori. Con noi c'è al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, oggi parliamo di quelle cose che certe volte ci capitano, vorremmo sempre farle e poi non lasciamo perdere, anche per non stare lì a far carte e ricorsi vari. Mi riferisco al fatto che certe volte compriamo il biglietto del treno e questo arriva in ritardo e poi potremo andare a chiedere il rimborso perché magari è arrivato con un ritardo molto netto, importante. Certe volte si lascia perdere. In questo caso non so se la cosa che ci racconti riguarda un viaggio in treno o qualcos'altro, ma questo è quello che andiamo a spiegare. Allora Francesco, intanto ti ringrazio per la premessa che è giustissima. Qua ci riferiamo a un viaggio di due amiche, chiaramente in aereo. In aereo. Ed è chiaramente con l'aereo che noi rileviamo le maggiori problematiche, soprattutto adesso che si avvicina l'estate. Però in generale tutto l'anno il nostro sportello Vacanza Informata riceve tantissime segnalazioni per quanto riguarda o ritardi nei voli o smarrimento di valigia, insomma ce ne sono tante casistiche. In questo caso stiamo parlando di un ritardo. Quindi classica vacanza di due ragazze per qualche giorno effettuata a febbraio, e tutto bene, la vacanza tutto bene, tutto bello, però al momento di ripartire l'aereo porta 6 ore di ritardo, quindi in buona sostanza le due persone, sono due impiegate della pubblica amministrazione, devono partire alle 17.45 e il volo è stato spostato a mezzanotte. Cos'è successo? Queste persone comunque dovevano arrivare a Bologna per poi tornare a Venezia, avevano quindi un treno, avevano una coincidenza, l'hanno persa, hanno dovuto prendere un treno alle 3 di notte, ci hanno raccontato di un viaggio assolutamente allucinante, insomma alla fine sono arrivate alle 6 di mattina, in questo caso in stazione a Mestre, per prendere ancora un altro taxi, un sacco di disagi. Ora Francesco, ne sentiamo di queste situazioni perché si ripetono costantemente. La cosa molto positiva è che in poco tempo, diciamo grazie all'ufficio legale dell'Adico ovviamente, e queste due persone che avevano provato anche da sole a chiedere un rimborso, a chiedere un risarcimento alla Ryanair, in questo caso diciamo tranquillamente qual è il vettore, qual è la compagnia presa in causa, e il vettore in realtà gli ha accordato un 400 euro a testa. È una cifra in realtà legittima, nel senso che è prevista anche dal codice del consumatore, quindi si può arrivare anche fino a 600 euro come risarcimento, però diciamo che le compagnie solitamente sono molto restie poi ad accordare questi rimborsi. Come dire, ci sentono poco, no? Sappiamo che quando insomma si chiedono dei risarcimenti e dei rimborsi chiunque ci sente poco. Dobbiamo dire che anche in particolare le compagnie, pur pressate in realtà da un regolamento che lo obbligherebbe in realtà poi a risarcire, però insomma tra mille scuse abbiamo anche avuto esperienze con altri tipi di compagnie di cui non faccio il nome, che dopo disagi simili hanno accordato un rimborso di 50 euro a passeggero, un rimborso che non abbiamo accolto, per cui siamo andati ancora avanti, siamo ancora diciamo in discussione, non dico in causa perché non è una causa, però stiamo ancora cercando di ottenere molto di più. In questo caso invece le due persone in questione sono riuscite a recuperare un bel gruzzoletto. E Francesco, ti aggiungerò una cosa, abbiamo comunicato questa notizia come siamo soliti fare e abbiamo ricevuto innumerevoli telefonate di persone che ci hanno chiesto ma come possiamo fare, perché effettivamente anche loro, tante persone hanno subito questo tipo di trattamento e come dicevi te all'inizio in maniera perfetta, e molti lasciano perdere purtroppo. Ecco, quindi qualcuno che era su lo stesso aereo, riconoscendosi nella stessa vicenda, adesso vorrebbe richiedere rimborso. È troppo tardi? Ci sono dei tempi per cui bisogna fare la richiesta di rimborso oppure si può lasciar passare anche qualche mese? No, allora si può far passare anche più di qualche mese in realtà. Non ci sono delle tempistiche definite, è chiaro che il nostro invito è quello di rivolgersi alla nostra associazione prima possibile, perché comunque bisogna poi valutare caso per caso e vedere come muoversi. Quindi ecco, noi invitiamo chiunque abbia avuto un problema a rivolgersi immediatamente poi all'associazione, insomma, a chi ritiene più utile a rivolgersi. Sì, ma però insomma, un po' di tempo, un po' di settimane, insomma, le avete a disposizione per fare. Assolutamente, anche perché ti dico, Francesco, le due persone in questione hanno provato inizialmente a procedere subito da sole, non hanno ottenuto niente, noi siamo intervenuti assolutamente in seconda battuta all'incirca un mesetto dopo l'avvenuto, insomma, disagio, l'avvenuto di servizio. Chiaramente si complica tutto, Francesco, capisci bene, si complica tutto nel momento in cui le tempistiche della richiesta di rimborso siano molto dilatate nel tempo. Certo. Il consiglio che noi diamo, anche perché è anche il consiglio più ovvio, vi succede il ritardo, lo smarrimento del bagaglio, molte volte il volo viene cancellato senza il necessario preavviso, perché se c'è il preavviso, allora in quel caso non possono essere previsti dei rimborsi. Noi invitiamo a chiamarci, insomma, noi come associazione, immediatamente, perché è bene affrontare di petto la problematica. Certo, magari conservate ovviamente gli scontrini delle spese sostenute per questi ritardi e via dicendo, che possono essere comunque utili ad arrivare ad avere una cifra congrua. Grazie quindi all'ADICO, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it. E lì trovate i contatti anche proprio per chiedere lumi e farvi aiutare in questi casi, ma anche in tanti altri casi, come sempre ve li raccontiamo attraverso la voce di Carlo Garofolini o in questo caso di Gianluca Codognato, che ringrazio e saluto. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.